I lavori vertono principalmente sull'efficientamento energetico della struttura. Sono partiti dall'idea della società Teatricon, che gestisce il teatro, per sostituire gli impianti che ormai erano vecchi. E in questo ha dato una mano anche il PNRR, che ha consentito di sfruttare un finanziamento che si avvicina circa alla metà dell'investimento, che è di 800.000 euro complessivamente, più altri 300.000 euro per lavori collegati, di cui parlerò fra poco. Fondamentalmente, l'obiettivo è stato quello di passare da un sistema di climatizzazione e di trattamento di aria che funzionava sulla base di combustibili fossili ad un sistema che invece funziona sulla base dell'elettrico, quindi con attenzione anche alla tematica green che è quanto mai di attualità. Collegato a questo discorso c'è stata una notevole attenzione nella ricerca di eventuali materiali nocivi presenti in struttura e nella loro bonifica, e nel miglioramento delle condizioni di sicurezza generali attraverso il rifacimento dei presidi antincendio e anche con il rifacimento della cabina elettrica, che quindi consentirà una fruizione della struttura in maniera molto più sicura da parte e comoda da parte di tutti gli utenti, ma anche delle compagnie e di chi lavora in questa struttura. Collegato a questo c'è anche l'aspetto del restyling generale del layout, quindi con sostituzione della pavimentazione, con sostituzione delle poltrone e con interventi sul palcoscenico per la sostituzione del sipario e di altri elementi tecnici che porteranno quindi questa struttura ad una notevole, notevole implementazione del comfort e anche del Sì, layout. infatti in questo momento, scusi se l'ho interrotta, ma siamo in platea, ma non c'è una sedia su cui sedersi, quindi tutto sarà rifatto, rimodernato, sostituito, immagino in maniera anche molto più confortevole. Parliamo per chi verrà a teatro. Assolutamente in maniera molto più confortevole e anche molto più sicura, perché si utilizzano appunto materiali in linea con le normative. Quindi attualmente non vediamo poltrone, ma arriveranno in tempo ovviamente per la nuova stagione. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi.